La prossima si chiama 2080. Ti senti smarrito, uomo moderno. Hai dimenticato i tuoi piani, hai perso le tue rotte. Non ti ricordi più come si fa a camminare, a faticare, a contemplare il cielo invece di guardarti annegare. Solo orizzonti bassi di vetro e lamiere. Solo orizzonti bassi di orari e doveri. Ti senti tranquillo, uomo moderno. Con la tua perfezione astratta e col tuo sangue freddo. Non ti ricordi più del fuoco che arde, dell'affanno del tempo e l'emozione. È solo un timido segnale intermittente. Solo orizzonti bassi di vetro e lamiere. Solo orizzonti bassi di orari e doveri. Grazie.